così giunge anche il venerdì, l'appuntamento del venerdì sera su Rock FM con Hard & Heavy Live, dedicato quindi ai live nella prima parte con il mondo hard rock AOR Glam Street e la seconda parte del... può esserci, anzi sicuramente heavy metal, a volte trash, a volte speed, eccetera. Saranno i Cinderella e i Gamma Ray i protagonisti dell'appuntamento di questa sera, come al solito offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi al numero 1 qua a Milano. Ricordo il sito internet www.mariposadischi.it, lì troverete tutto, dai biglietti dei concerti alle novità, agli album in catalogo. Come sempre ringrazio il nostro autore Simone, che si prodiga a preparare le varie storie, biografie delle band, e allora possiamo dare lo start ufficiale a questo spazio di questa sera, di questo venerdì, con i Cinderella. L'album si intitola Live at the Key Club 99, pubblicato, come dice il titolo, nel 1999. È un concerto che hanno tenuto un anno prima, ottobre del 1998, presso il Key Club di Hollywood, in seguito alla loro reunion avvenuta nel 1997, poi ne parleremo durante il programma. Le tracce sono praticamente tutti, o quasi tutti, i loro singoloni, i loro successi. Molti di questi sono anche già in rotazione quotidiana a livello delle nostre proposte. Qualcosa vi proporremo e poi qualcos'altro, diciamo, nelle cinque tracce che andremo ad ascoltare non saranno solo i classici singoli. La band è naturalmente americana, la lineup è composta da Tom Kafer, voce e chitarra, Jeff Labar, altra chitarra, alla batteria abbiamo Fred Curry e per chiudere al basso Eric Brittingham. Iniziamo con il primo pezzo, si intitola Somebody Save Me, la versione in studio si trova nel loro album d'esordio Night Songs, sono i Cinderella. Yeah. Applausi per la formazione dei Cinderella. Con loro abbiamo iniziato con il nostro spazio Hard and Heavy Live ad ascoltare gli estratti, alcuni estratti da questo lavoro, che comprende con assoli vari, sono assoli di batteria, assoli di chitarra, ben 16 tracce, come vi dicevo, tutti i loro più grandi successi. Questa era Somebody Save Me. La band arriva dalla città di Philadelphia, band americana di glam rock. Grande successo hanno ottenuto soprattutto in America nella seconda metà degli anni 80, quando questo genere di musica era quello preferito dalla popolazione americana, soprattutto dai teenagers, e hanno venduto, pensate, nella loro carriera 18 milioni di dischi. 7 dischi hanno raggiunto la certificazione del platino. Platino, ricordo, che vuol dire in America superare il milione di copie vendute. Cinderella sono stati creati dal cantante chitarrista Tom Kafer insieme al bassista Eric Brittingham nel 1983, dopo essere fuoriusciti dai Saints in Hell. A Lineup Ultimata, con l'ingresso di un bassista e di un secondo chitarrista, realizzano alcuni demo e cominciano così a proporsi a suonare in the club dal vivo. Ad una delle loro esibizioni era presente, casualmente, Bon Jovi, che rimase favorevolmente colpito e suggerì questa band alla sua etichetta, la Mercury Records. L'etichetta fiutò l'affare e li mise sotto contratto. Altro pezzo che andiamo ad ascoltare, questo è decisamente una canzone molto nota come singolo, motivo intitolato Gypsy Road, che si trova nella versione in studio, nel loro secondo album, Long Cold Winter. We'll be right back. Callan, li stiamo proponendo nel nostro spazio di Arden Daily Live, da Live at the Key Club 99, questo è il titolo del CD e questo era il brano che chiudeva il concerto, poi sarebbero usciti per altre canzoni, per altri bis, era Gypsy Road. Il concerto, ripeto, si è tenuto presso il Key Club nell'ottobre del 1998 in quel di Hollywood e poi pubblicato l'anno seguente. Continuiamo con la loro storia, anzi arriviamo praticamente alla pubblicazione e alla registrazione del loro primo album. Cambiano il chitarrista, cambiano il bassista, arrivano al 1986 con la pubblicazione di Night Songs, che per essere un album d'esordio diventa un grande successo in America. Supera praticamente le 3 milioni di copie vendute, quindi tre volte disco di platino, arriva al numero 3 nelle classifiche di vendita americane. Addirittura lo stesso Bon Jovi che li aveva scoperti e Tony Mills degli Shy si occupano dei cori, sono presenti come special guest nei cori proprio di questo loro primo album, che piazza anche diversi singoli nelle classifiche. Insomma, è veramente un esordio col botto, coi fiocchi, come si suol dire. Andarono poi di spalla a David Lee Roth e allo stesso immancabile Bon Jovi. Il secondo album si intitola Long Cold Winter, è considerato da molti il loro capolavoro, anche se il primo, diciamo, non portava nulla di nuovo, perché erano e sono un mix tra AC/DC e Aerosmith. Il secondo si sposta leggermente di più verso le sonorità blueseggianti, esce nel 1988 e bissa il successo del precedente, con oltre 3 milioni di copie anche in questo caso, quindi tre dischi di platino, arriva al numero 10 in America ed entra anche nelle charts di vendita in Inghilterra al numero 39. Andiamo ad ascoltare un altro esordio, un altro estratto proprio dall'album d'esordio Shake Me, questo è il motivo, che faceva parte e fa parte dell'album Night Songs. La formazione è quella dei Cinderella. Shake me! Questo, come potete ben capire da come ha chiuso questa canzone, è anche il motivo che chiude ufficialmente il loro show, il loro concerto, almeno nella tracklist di questo CD, dove, ricordo, ci sono 16 brani, il CD è singolo, non doppio, e in calce viene assolutamente evidenziato che non ci sono overdubs, ovvero sia sovraincisioni post registrazione di questo concerto. Così hanno suonato, così hanno inciso l'album, assolutamente 100% fucking live, viene riportato nelle note di cronaca della copertina di questo album, che, ripeto, se vi interessa, se vi sta piacendo, si intitola Live at the Key Club 99. Loro hanno pubblicato anche per il mercato giapponese un EP dal vivo, un EP stampato sia in vinile che in CD, se non sbaglio con 5/6 tracce. Questo è comunque l'unico vero album live completo, ripeto, sottolineo, ci sono ben 16 canzoni. Continuiamo con la loro storia e arriviamo al terzo album, Heartbreak Station, del 1990. Se con il secondo, Long Cold Winter, hanno cominciato a inserire un po' di sound blueseggiante, con questo Heartbreak Station si spostano ancora di più verso quelle coordinate musicali, e la band però riceve diverse critiche. Nonostante tutto, l'album superò il milione di copie vendute in America e arrivò al numero 19 nelle classifiche. Parteciparono anche, tengo a sottolinearlo, in Europa al Moscow Music Peace Festival, il grande concerto hard rock in quella di Mosca con tantissime band. Da segnalare poi che arriva, come spesso diciamo, agli inizi degli anni 90, la musica grunge, quindi cambiano i gusti di coloro che compra i dischi e che segue naturalmente i filoni musicali di moda. Il glam passa di moda, i Cinderella cominciano a passare in secondo piano anche a livello di case discografiche, e il loro quarto album, Still Climbing, del 1994, passa praticamente inosservato. Scarsissime vendite, così perdono il contratto e poco tempo dopo la band si scioglie. Altro motivo che andiamo a presentarvi, un singolo pubblicato ed estratto dal loro primo album, Night Songs, si intitola Nobody's Fool. anche un lento, un paio di lenti loro li hanno registrati e sono stati pubblicati come singoli. Questa Nobody's Fool e ancora di maggior successo Don't Know What Till You Got. Questo era un altro titolo che comunque è sempre presente in questo album live. E arriviamo alla fase finale della storia della band, che si riformano con line-up originale nel 1997 per alcune date dal vivo, oltre alla registrazione di un paio di brani nuovi in studio da inserire nel loro best of. Nel 98 vanno ancora in tournée e nel 99 esce il live che vi sto presentando. La band firma un contratto poi con la Sony. Nel 2001 scrive e registra un nuovo album che purtroppo non viene mai pubblicato. La Sony si rifiuta di pubblicarlo, non so dirvi il perché, e ancora oggi l'album non è uscito. Attualmente i Sindalel però sono ancora legati, sono sotto contratto con la Sony e quindi c'è una causa legale in corso per cercare di svincolarsi dalla Sony di a questo punto pubblicare loro stessi addirittura l'album. Nel frattempo però hanno sempre continuato a suonare dal vivo, tanto che nel 2006 hanno praticamente celebrato il 20° anniversario dell'uscita dell'album d'esordio con un tour insieme agli amici Poison. E chiudiamo il nostro spazio con i Cinderella dal vivo al Key Club 99, dove 99 sta per l'anno di pubblicazione, con il brano che apriva questo loro concerto. Ripeto, l'album presenta ben 16 canzoni con vari assoli di batteria e di chitarra. Abbiamo ascoltato Somebody Save Me, Gypsy Road, Shake Me, Nobody's Fool, e questa è la canzone che si trova nel loro terzo album Heartbreak Station, si intitola More Things Change, Cinderella. E tra poco ritorneremo con la seconda parte di Hard and Heavy Live insieme ai Gamma Ray. Chiuso la prima parte del nostro appuntamento di Hard and Heavy Live del venerdì con i Cinderella, entriamo nella fase metal, quindi nella seconda parte, sempre con la voce di Marco Gravelli che vi dà il benvenuto su Rock FM. Gamma Ray, album si intitola Alive 95. E live sta perché dal vivo, 95 è la registrazione. Esce in effetti l'anno dopo, nel 96, ed è il primo e unico CD dal vivo, a parte i vari DVD. Ci sono 12 canzoni registrate nel 95 durante il Man on Tour, di supporto all'uscita dell'album Land of the Free, che li ha portati anche dal vivo qua a Milano, al locale che una volta si chiamava New Zimba. Le tracce sono state registrate in effetti dai concerti che hanno tenuto a Milano stesso, Parigi, Pamplona, in Spagna, ed Erlangen. Nella tracklist ci sono due cover degli Halloween, Future World e Ride the Sky, ed una cover degli Holocaust, il loro classico Heavy Metal Mania. Naturalmente questa sera non proporremo le cover, ma motivi che sono presenti e sono legati alla loro discografia. La lineup: Kay Jensen, voce e chitarra, Dirk Schlachter all'altra chitarra, Thomas Neck alla batteria e Jan Rubach, al basso. Poi ci sono cambi naturalmente di lineup e li incontreremo quando andremo a prendere in esame la biografia, come sempre preparata dal nostro Simone, di cui i Gamma Ray sono una delle sue band preferite. Partiamo con il primo brano, quello che apre l'album, e si intitola proprio Land of the Free. Vi ho detto che questo tour è servito per supportare l'omonimo album, quindi iniziamo proprio così con Land of the Free. Sono i Gamma Ray. You Land of the Free, pezzo che apriva a questo concerto, che apre questo CD Live 95. Stiamo proponendo e presentando la formazione degli dei Gamma Ray, che insieme agli Halloween sono, diciamo, una delle band più celebri del panorama metal europeo. Sono tedeschi, arrivano da Amburgo. Il leader e il fondatore è Kay Hansen, considerato il padre del power metal europeo da quando già militava nei tempi degli Halloween, con i quali ha inciso 3 album, un EP, e poi se n'è andato per motivi personali, attriti vari all'interno della band, nel 1988. Così un anno dopo decide di creare un proprio progetto e per l'occasione contatta il bravissimo cantante nonché amico Ralph Shippers, ex Tyrant Pace, e che aveva militato per un breve periodo negli Halloween stessi per alcune date dal vivo. Completa quindi la lineup con un bassista ed un batterista e praticamente la formazione è pronta. Così cominciano poi a scrivere brani loro e tra poco vi spiegherò l'arrivo, la pubblicazione del loro primo album. Andiamo invece di nuovo ad ascoltare la musica. Da questo è Live 95, abbiamo scelto dopo Land of the Free, Tribute to the Past, la cui versione in studio si trova nel 3° album, Insanity and Genius. La formazione è quella dei Gamma Ray. Yeah. Tribute to the Past, la versione in studio, lo ricordiamo, è nel terzo album Insanity and Genius. Questi sono i Gamma Ray. Arriva nel 1990 la pubblicazione del loro primo album, Hearing for Tomorrow, un buon lavoro di power metal melodico che musicalmente cercava di proseguire il discorso degli Helloween. La copertina dell'album, con Kay e Ralph in primo piano, i loro volti, lasciava intendere che era un progetto. Però, visto il buon risultato, soprattutto in Giappone, dove hanno in seguito registrato anche due videoconcerti, che decide che i Gamma Ray diventassero a quel punto una band vera e propria. Contatta il chitarrista Dirk Schlachter, che oggi suona il basso, ed il nuovo batterista Uri Kusch, che in seguito suonerà proprio negli Helloween e anche nei Masterplane. Esce così nel 1991 il loro secondo album, Sign No More, che si distacca dal classico power metal a favore di un certo hard rock. Sarà l'album, diciamo, più atipico della loro discografia, che ad oggi a Kay non è che piaccia più di tanto, Rendendosi conto del mezzo passo falso, Kay sostituisce la sezione ritmica e torna ad un certo power metal con l'album Insanity and Genius del 1993, che alterna ottimi brani ad altri meno ispirati e che comunque arriva all'11° posto nelle charts finlandesi. Arriviamo ad un altro brano, si intitola Space Eater, fa parte del loro primo lavoro intitolato Heading for Tomorrow, perlomeno la versione in studio. Questa è quella dal vivo, estrapolata dal live che vi sto presentando, Alive 95 Gamma Ray. We'll be right back. Space Seeder dai Live 95, uscito nel 1996, registrato per supportare il tour di Land of the Free, concerti catturati, alcune canzoni arrivano da Milano, da Parigi, Madrid, Pamplona e Erlangen. Questo per il live in questione, abbiamo proposto Space Eater e continuiamo a parlare della loro storia, arriviamo diciamo alla svolta. In effetti Kay cominciava a desiderare di tornare a cantare oltre a suonare la chitarra, così come aveva fatto agli inizi negli Halloween, ed inoltre il fatto che il cantante amico Ralph abitasse lontano da Amburgo rallentava i lavori per il nuovo album. Parallelamente a ciò, Ralph era sempre più convinto di entrare a far parte dei Judas Priest. Ricordiamo che i Judas non avevano più nelle loro fila Rob Halford, che era andato a creare i Fight, e cercavano un nuovo cantante. Poi non fu il caso di Ralph, che non entrò nella band. Così però Kay e Ralph ne parlarono, decisero insieme che la separazione fosse la cosa migliore. Purtroppo appunto per Ralph non venne scelto per diventare il cantante dei Judas, e allora lui creò la sua attuale band, che sono i Primal Fear. Nel 1994 i Gamma Ray comunque pubblicano il loro capolavoro, Land of the Free, che riprende il classico power metal fine anni 80 con molti molti cori. Quest'album è anche considerato una pietra miliare per la rinascita del power metal europeo, che era stato messo da parte agli inizi degli anni 90 con l'avvento di altri generi musicali. Dall'album Land of the Free, proprio quello che stiamo citando, andiamo ad ascoltare la prossima canzone. Si intitola Abyss of the Void, Gamma Ray. Battling on Le note di Abyss of the Void per la formazione dei Gamma Ray. Siamo nella fase finale, ancora un brano e concludiamo anche la puntata di questa sera di Ardent Heavy, ma concludiamo la storia dei Gamma Ray. Arriviamo, diciamo, al cambio di doppio di formazione con l'ingresso del batterista Dan Zimmerman e del chitarrista Henio Richter. Così nel 97 esce l'ottimo Somewhere Out in Space, che arriva al numero 39 in Germania e gli valse la partecipazione alla seconda edizione del Gods of Metal. Poi arrivano altri album validi come Power Plant del 99, che vedeva il sound più pesante, e arrivò al numero 29 nelle charts di vendita. Nel 2000 arriva un best of con le canzoni completamente risuonate. Da qui comincerà un leggero calo della qualità dei lavori, con maggiori influenze heavy metal anni 80, come nel lavoro del 2001, cioè No World Order, seguito 4 anni dopo da Majestic, fino ad arrivare al recentissimo Land of the Free Part 2, che lo stesso Kay Hansen ha presentato nei nostri studi, che è uscito lo scorso anno. Musicalmente è lontano dall'originale e dove sono marcate, diciamo, le influenze verso gli Iron Maiden. In tema di uscite è prevista per quest'anno la pubblicazione di un nuovo DVD dal vivo. Vi lascio con Man on a Mission, ultimo pezzo che andiamo a proporre. Ringrazio il nostro autore Simone, il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano, e vi rimando all'appuntamento del prossimo lunedì 2021, sempre su Rock FM con Ardent Heavy, con Marco Gravelli. Grazie, buon weekend, ciao! Sonic colors in the sky. Everything you do will be analyzed. Chance to love, give us a chance to